Monelle, i racconti giovanili di Devana. Il giudizio. Ho scoperto tutto, ti dirò cosa devi fare il giorno dell'inaugurazione. Indossa un papillon giallo. Da qualche tempo Reeve scriveva queste parole su fogli e foglietti, in continuazione. Ogni volta che si sedeva alla scrivania, la sua mano inesorabilmente guidava la penna a tracciare le lettere della frase divenuta ormai l'assillante compagna delle sue giornate. Tutto era cominciato quella sera a teatro. Si rappresentava la storia di un gruppo di persone che si accusavano a vicenda di crimini orrendi, senza che nessuno di loro avesse in realtà commesso alcunché di male. Era bastato che qualcuno avesse detto di possedere le prove del delitto perché saltasse fuori mostruoso e irrefrenabile l'astio che li aveva allontanati e che con il passare degli anni e delle incomprensioni era diventato l'odio che li faceva accusare l'un l'altro di un crimine mai commesso. Più ci pensava e più Reeve, che pure era una ragazza disincantata e pragmatica, entrava nel meccanismo di quell'incubo, lo assorbiva, lo elaborava. Quando si ha la coscienza sporca basta un niente per sentirsi minacciati, pensava tra sé. Era profondamente arrabbiata con tutti coloro che non avevano rispetto per la dignità umana. Il suo radicato senso della democrazia usciva ogni volta più frustrato dalle lunghe anticamere fatte per parlare con qualche potente, o dalle occasioni che le venivano negate a causa della sua schiettezza e del suo sesso. E se davvero... No, sarebbe impossibile, eppure potrebbe darsi. Dopo giorni di decisioni e ripensamenti, finalmente, una mattina, come accingendosi a fare un esperimento senza alcuna possibilità di esito positivo, Reeve, anziché strappare il fatidico foglietto come faceva di solito, dopo essersi accertata di non aver lasciato impronte, di aver usato una calligrafia assolutamente anonima, lo infilò in una busta e lo spedì alla cortese attenzione di un membro del consiglio cittadino che lei ben conosceva. Era stato proprio lui a prometterle, con tanti sorrisi, una presentazione per la selezione dei candidati al concordato universitario. Ed era stato lo stesso a negargliela, pur avendone lei pienamente diritto, dopo aver ricevuto un suo gentile rifiuto a fare il ribottante favore che le aveva chiesto in cambio. La vita di Reeve era costellata di squallidi episodi di tale genere, come quella di molte sue coetanee. A differenza delle altre, però, lei non si era rassegnata e non si era adeguata, pensando che, a furia di combattere, prima o poi le sarebbe stata resa giustizia. Così, in attesa di quel momento, che sembrava però allontanarsi ogni giorno di più, Reeve svolgeva un lavoro mediocre in uno squallido ufficetto. Aspettò qualche giorno dopo aver spedito il messaggio, poi si prese qualche ora di libertà, uscì dall'ufficio, raggiunse il palazzo del consiglio cittadino e cominciò a spiare il suo uomo per leggere sul suo volto qualche tipo di reazione. Lo seguì come poté nei percorsi tra un ufficio e l'altro. E quando era chiuso in qualche locale, Reeve si precipitava fuori dal palazzo per guardare nella stanza dalla finestra. Purtroppo, più passavano i minuti e più si rendeva conto che il consigliere era impassibile. Parlava, discuteva e decideva come se nulla fosse. I casi erano due: o non aveva ricevuto il biglietto, o stranamente aveva la coscienza pulita. Dopo ore di pedinamenti, scoraggiata, stava per andarsene pensando di essere stata una sciocca a ritenere di poter riprodurre nella realtà ciò che era stato il frutto della fantasia di un drammaturgo, quando improvvisamente vide il suo uomo uscire dalla sala del consiglio e dirigersi con passo svelto al portone principale. Scese in strada. Reeve si affrettò a seguirlo, dribblando le persone che le venivano contro, rapide e indaffarate. Il consigliere si era completamente dimenticato di prendere il cappotto, cosa assolutamente improbabile per un uomo politico. Il cappotto rappresenta per il politico una sorta di secondo pilota da lasciare in giro in propria vece in modo da poter essere in più posti contemporaneamente. Alcuni politici molto in vista usavano muoversi con tre o quattro cappotti alla volta. Si trattava di una distrazione che un uomo della sua posizione non poteva e non doveva permettersi, motivata sicuramente da una fretta insolita, da qualche preoccupazione particolare. Mentre faceva queste considerazioni, Reeve registrò anche un altro particolare importante. Il consigliere camminava a guardingo, raso muro, voltandosi spesso indietro come per controllare che nessuno lo seguisse. I suoi occhi erano quelli di un uomo impaurito. Incredula ed esultante, Reeve scappò in ufficio e per tutto il giorno non riuscì a levarsi quell'immagine dalla mente. Cosa pensava il consigliere di tanto importante da dimenticarsi il cappotto? E quale minaccia motivava un comportamento così circospetto in un uomo abituato ai più squallidi affari? Reeve giunse alla conclusione, o almeno volle convincersene, che il suo biglietto aveva sortito l'effetto desiderato di spaventare il destinatario. Dopo qualche giorno, il riprovarci fu scontato. Questa volta il destinatario dell'enigmatica missiva fu il direttore dell'informatore cittadino, uomo senza scrupoli, depositario e complice di molti torbidi segreti legati alla nomina ufficiale sua e di altri. Era stato lui a farle fare dozzine di telefonate a vuoto e chilometri di strada in macchina per incontrarlo, salvo poi non presentarsi agli appuntamenti, dando così un chiaro esempio di abuso di potere e inesistente considerazione della dignità altrui. Reeve gli aveva chiesto di poter lavorare per l'informatore e lui, dopo aver visionato alcuni suoi pezzi, gli aveva promesso che sarebbe stata la prima assunta la prossima stagione. Da allora stagioni ne erano passate, persone ne erano state assunte, ma tutte con la tessera viola. Lei, che quella tessera non l'aveva, stava ancora aspettando. Ho scoperto tutto. Ti dirò cosa devi fare il giorno dell'inaugurazione. Indossa un papillon giallo. Come la volta prima, Reeve si prese qualche ora di permesso. Per fortuna il lavoro era così banale che riusciva a sbrigarlo in meno di metà tempo, evitando così di accumulare arretrato. Prese la macchina e si recò alla sede ufficiale dell'informatore. Lì venne a sapere da un tizio che usciva visibilmente contrariato da un infruttuoso tentativo di parlare con il direttore, un fatto interessante che le fece subito rizzare le antenne. Il direttore aveva dato ordine alla segretaria di non far entrare nessuno che non fosse stato prima perquisito dalla vigilanza, adducendo a motivo la paura per quell'ondata di delinquenza che ultimamente si era abbattuta sulla città. Dalla finestra poté distinguere il destinatario del suo secondo messaggio parlare con le persone che riuscivano ad entrare nel suo ufficio in maniera affabile, come sempre, largendo sorrisi senza risparmio. Anche questa volta Reeve fu presa dal dubbio che il direttore non avesse nulla da nascondere, che quello della delinquenza non fosse un pretesto, ma la verità. Il suo uomo appariva troppo tranquillo per essere turbato realmente. Dopo parecchio tempo, i dubbi di Reeve avevano preso sopravvento sul suo entusiasmo iniziale. Questa volta è andata male, pensava, e forse anche la volta scorsa, forse mi sono lasciata suggestionare e ho forzato la realtà. Intanto guardava dalla finestra l'amichevole sorriso esibito dal direttore all'interlocutore di turno. Mentre Reeve si stava risolvendo a tornare in ufficio, scadde anche il tempo a disposizione di quel personaggio, toccava al prossimo, che dopo essere stato perquisito, entrò dal direttore. Era il consigliere. Reeve ebbe un tuffo al cuore. La sua mente cominciò a formulare ipotesi sempre più incalzanti. Per quale motivo il consigliere si era spostato personalmente per venire dal direttore? Non era mica periodo di auguri natalizi e di propaganda elettorale. Di solito i politici scambiavano i loro accordi in occasioni mondane, quando nessuno poteva accorgersene, per esempio ai vernissage o alle prime delle opere, dove avevano sempre i posti migliori riservati e regolarmente sbadigliavano, mentre c'era chi avrebbe dato un braccio per poter vedere lo spettacolo da quella posizione privilegiata, o chi non aveva i soldi per pagarsi il biglietto e doveva ascoltare da fuori il teatro. Reeve notò con gioia crescente che i due, tra un sorriso e una pacca sulla spalla, si dilungavano in evidenti convenevoli e nel frattempo si mangiavano con gli occhi, cercando di superare l'ostacolo della pelle e delle ossa per arrivare direttamente al cuore dell'avversario. Entrambi cercavano di capire se l'altro sapeva qualcosa, e Reeve se ne stava accorgendo senza sforzo perché conosceva il loro comportamento in situazioni di normalità. Di solito il loro sguardo era quello sornione di un gatto che sta per mangiarsi il topo. In quel momento, invece, i loro occhi apparivano indagatori e sospettosi. Ora erano in due ad aver paura. Reeve non ebbe bisogno di ulteriori conferme per capire che aveva in mano un'arma micidiale di una portata che andava al di là della sua immaginazione stessa. Il guaio era che non sapeva assolutamente in che modo servirsene. Li aveva spaventati, d'accordo, ma ora? Quale doveva essere la prossima mossa? Come punirli delle loro tante malefatte? Il giorno dell'inaugurazione aveva detto, era la prima occasione che le era venuta in mente, ma cosa avrebbe fatto quel giorno? Con queste altre domande che le facevano scoppiare la testa, Reeve si allontanò dal suo osservatorio e tornò in ufficio. Quel giorno disse al capo di avere mal di testa e tornò a casa, si chiuse in camera, stesa sul letto al buio e cominciò a pensare. L'inaugurazione era il momento pubblico che la cittadinanza attendeva da anni, quello in cui avrebbe potuto finalmente vedere il complesso edilizio per l'arte, la cultura, lo sport e il tempo libero. Il complesso hollywoodiano dotato di un enorme parco, di numerose fontane, laghetti artificiali e di altre inimmaginabili attrattive. Era ciò per cui i cittadini lavoravano e pagavano le tasse da anni. La creatura per la cui realizzazione erano stati eletti i rappresentanti politici, il simbolo e l'idolo della città intera. Il giorno dell'inaugurazione era atteso più del Natale o della fine di una guerra, e ci sarebbero stati proprio tutti, potenti e poveracci, borghesia e clero, ipocrisia e commozione, tutti coloro che avevano a che fare con la costruzione, ed erano tanti, sapevano benissimo che i soldi recuperati in tutti quegli anni dalle tasse che i cittadini avevano pagato volentieri per avere il loro centro sarebbero stati sufficienti per costruirne tre. Ma naturalmente è così difficile controllare personalmente le operazioni. I soldi a volte prendono strade diverse e chissà dove vanno a finire. I cittadini non lo sapevano e continuavano a pagare, o forse lo sospettavano. Ma tanto cosa potevano fare? I potenti, gli oligarchi, erano convinti di essere delle specie di santi, non solo agli occhi del popolo credulone, che capiva la metà di ciò che gli veniva detto nello strano linguaggio che si adoperavano, ma anche agli occhi l'uno dell'altro. Erano convinti, cioè, che nessuno sospettasse le trame private che ogni oligarca aveva intessuto per occupare il posto o per mettere le mani su qualche operazione proficua. Si sarebbero fatti scannare, piuttosto che rivelare ai colleghi di potere la loro colpevolezza. Dopo un estenuante quanto sterile colloquio, il consigliere uscì dall'ufficio del direttore. Nessuno dei due si era apparentemente tradito. Il giorno seguente, Reeve, senza rifletterci troppo sopra, scrisse immediatamente il messaggio su un altro foglietto e lo spedì al presidente della consulta per il concordato universitario. Costui era stato docente di Reeve all'epoca in cui lei frequentava le lezioni al concordato, nonché esaminatore per la prova orale di economia delle specie animali. Fu proprio lui a scandalizzarsi di fronte ad una colta citazione aristotelica di Reeve riguardo all'essere in potenza, ovvero potenziale. Il presidente, esperto conoscitore della filosofia aristotelica, travisò completamente il senso di tale enunciato e pensò che Reeve stesse nominando l'impotenza. Così, dopo averle ricordato che si trovava nella sacra aula magna del concordato, la cacciò e la diffidò dal tornare senza aver prima appreso i rudimenti della buona educazione. Reeve sorrise al pensiero di quell'uomo unto e ignorante che durante le lezioni nominava Aristotele in continuazione come se lui e lo stagirita fossero stati intimi amici. Nella solita maniera, lasciò passare qualche giorno. Poi si prese mezza giornata di libertà e andò a controllare le reazioni della vittima di turno. Neanche a dirlo, il presidente si comportava normalmente mentre esaminava i poveri studenti e studentesse che passavano sotto le sue forche caudine e trattava loro con il consueto disprezzo. Ma c'era un particolare di cui Rive si accorse senza fatica, e cioè che la cattiveria del presidente non era compiaciuta, come al solito, bensì era, come dire, quasi automatica, distratta. Sembrava che il suo pensiero fosse lontano dai meandri in cui vagava la mente del presidente, ogni tanto tornava nella sacra aula in tempo per fargli dire qualche crudeltà o battere il grosso pugno sulla sacra cattedra. Intanto lucide gocce di sudore uscivano dai suoi capelli e gli scorrevano lungo il naso. È fatta, pensò Reeve, non l'ho mai visto così conciato. Ha paura anche lui, come tutti gli altri, il lurido verme, feccia della società. È arrivata la resa dei conti. Ad ogni vittoria Reeve si imbaldanziva e si convinceva sempre più di avere in mano un'arma che le avrebbe dato un potere di portata inimmaginabile. La sete di giustizia per sé e per le altre vittime dei furbi traboccava dal suo essere, quasi la soffocava. Seppe qualche giorno dopo che il presidente, recatosi presso il consiglio cittadino per certi documenti, era stato visto frugare nelle tasche della giacca del consigliere in un momento in cui giaceva abbandonata nel guardaroba e, colto in fallo, si era giustificato dicendo che senza occhiali aveva scambiato la giacca per la sua. Seppe anche che, incontratosi in un bar con il direttore dell'informatore, si fece scrivere su di un foglio l'indirizzo della sua villa di campagna, dicendo che gli sarebbe piaciuto andarlo a trovare una domenica di queste, e subito dopo averlo salutato, era corso da un esperto grafologo a far confrontare la scrittura con quella del messaggio di Reeve per controllare se fosse la stessa. Ma guarda che brava gente, pensò gongolante quest'ultima. La quarta vittima fu il primo cittadino, che riuniva periodicamente i neolaureati e laureate per erudirle sull'arte politica. Egli faceva errori di sintassi molto banali nel parlare. Per Rive era una tortura stare a sentire i suoi lunghi discorsi. Naturalmente era impossibile, oltre che inutile, prendere appunti su quella farraginosa cozzaglia di parole. Rive si chiedeva perché gli altri convenuti si dessero un grande affare a scrivere, poi capì. Quando l'ultimo giorno fu l'unica a non avere l'attestato di partecipazione ai convegni, sebbene avesse perfettamente stampato in testa il peraltro scarsetto senso dei discorsi del primo cittadino. La meschineria di quell'uomo era superata solo dalla sua arroganza. Era assolutamente incompetente, incapace di svolgere anche le mansioni più semplici, ma talmente complice in tutti i più loschi affari politici da avere sempre diritto ad una fetta di torta nei periodi di spartizione. Anche questa volta la reazione di paura da parte della vittima designata si fece attendere da principio, ma poi arrivò puntuale. Reeve, completamente catturata dal meccanismo, mandò parecchi altri messaggi al rappresentante del popolo, al presidente della società di partecipazioni, perfino al santo vicario, che peraltro avrebbe dovuto poter vantare una vita limpida e corretta. Ho scoperto tutto. Ti dirò cosa devi fare il giorno dell'inaugurazione. Indossa un papillon giallo. Lei, che era sempre stata così obiettiva, veniva consumata giorno dopo giorno da un gusto irrazionale, quasi demoniaco, di vendetta. I nervi degli oligarchi cominciavano a scricchiolare. Le domande senza risposta che ponevano a se stessi erano sempre più incalzanti. Chi mi ricatta? Cosa ha scoperto? Perché non mi chiede nulla in cambio del silenzio? Che succederà il giorno dell'inaugurazione? Col passare delle settimane si erano ridotti come patetici fantasmi, a furia di pensare, di studiarsi a vicenda per scoprire in quale maniera gli altri fossero coinvolti e cosa sapessero. Le occhiaie provocate dalle ormai troppe notti insonni non riuscivano più ad essere giustificate, ma soprattutto lo sforzo immane di non far trapelare nulla, di comportarsi normalmente per non destare sospetti, stava inesorabilmente logorando le sorridentissime personalità cittadine. Ma anche Reeve, la cui soddisfazione cresceva in misura direttamente proporzionale all'angoscia degli oligarchi, era turbata da un problema di non secondaria importanza: cosa avrebbe fatto il giorno dell'inaugurazione? Ormai era troppo avanti. Aveva in mano finalmente la giustizia e non poteva certo giocarsi questa occasione unica con una mossa sbagliata. Dannazione, dannazione, dannazione. Come riuscirò a far vergognare quegli svergognati? La soluzione si presentò, infine, scivolando dolcemente tra le pieghe di quell'esplosiva situazione. Si chiamava Panicula vastatrix. La panicula era un minuscolo parassita che si sviluppava in situazioni atmosferiche anomale, come quella in cui la città era immersa, provocata dalla carenza nell'aria di pirossite, un elemento chimico che veniva disintegrato dal riscaldamento eccessivo nelle abitazioni. Ma Panicula era il nome latino che nessuno usava per la sua tipica forma, visibile solo al microscopio. Il parassita veniva normalmente chiamato papillon giallo. E venne finalmente il giorno dell'inaugurazione. L'enorme piazzale antistante, il complesso che doveva essere inaugurato, era gremito di persone che la giornata piovosa non era riuscita a tenere a casa. Proprio davanti all'ingresso principale, faraonico, si ergeva il palco dal quale le autorità avrebbero tenuto il loro discorso alla cittadinanza. Nel parcheggio sotterraneo addirittura si era formata una coda di corriere che, dopo aver trasportato la moltitudine dei curiosi dalla provincia, attendevano una collocazione. Grandi tavolate coperte di bicchieri di carta e bottiglie di vino scadente erano state riparate alla meglio dalla pioggia. Il palco sembrava un altare sul quale la casta sacerdotale stesse per immolare vittime alla divinità. Uno alla volta arrivarono gli oligarchi, lentamente, con passo timoroso. Il consigliere, il direttore dell'informatore, il presidente della consulta, il primo cittadino, il rappresentante del popolo, il santo vicario, tutti con un papillon giallo, evidentissimo, in mezzo al grigiore degli impermeabili e della luce diurna. Perfino il santo vicario non aveva tralasciato l'inconsueto ornamento. La loro espressione, quando si guardarono, fu indescrivibile. Le loro facce livide esprimevano imbarazzo, rabbia, frustrazione, impotenza. Il loro smascherarsi a vicenda fu perfetto. Ognuno leggeva negli occhi degli altri le proprie colpe, quelle stesse colpe che lo rendevano quasi santo agli occhi del popolo. All'improvviso, uno squarcio di luce fugò la pioggia, una di quelle rare aperture della nuvolaglia che proiettano un raggio di sole abbagliante su qualcosa, infondendogli un alone di santità e mistero. La folla, colpita e ammutolita di fronte alla visione del raggio, seguì il suo itinerario dal cielo alla terra e scorse sul palco, illuminati dal sole, gli oligarchi in fila con quello strano papillon giallo. L'effetto sulla folla fu veramente esplosivo. Tutti cominciarono a battere le mani, traboccanti di riconoscenza per chi aveva realizzato il loro sogno. L'applauso si trasformò in boato, il disagio degli oligarchi, che non capivano perché il popolo li osservasse con quell'espressione, divenne terrore. Al centro della piazza c'era un banchetto, come quelli che servono a raccogliere le firme per le petizioni popolari. Sopra al banco erano state disposte in bell'ordine file di finte bombolette di insetticida che venivano donate simbolicamente a chi firmava la petizione. Lo scopo della raccolta di firme era enunciato sullo striscione che sovrastava il banchetto: Comitato cittadino per lo sterminio dei papillon gialli. Il popolo, tutto preso dall'euforia dell'avvenimento e dalla commozione per quello spettacolo naturale così mistico, non fece neanche caso al banchetto, anche perché lo striscione stava alle spalle della gente, ma gli oligarchi lo videro perfettamente di fronte dall'alto del loro palco. Il fastoso chiasso della cittadinanza venne interpretato come l'inizio di una sommossa popolare e i cittadini, già rassegnati ad ascoltare i lunghi e incomprensibili discorsi, senza i quali non si poteva compiere un'inaugurazione, si videro liquidare con qualche balbettata parola dai loro rappresentanti politici, sempre più terrorizzati. Gli oligarchi si affrettarono a lasciare il palco e la piazza. Il giorno dopo, parecchi posti strategici del governo cittadino furono inspiegabilmente lasciati scoperti. La cittadinanza non si spiegò mai il motivo di questa serie di dimissioni. Reeve perse però il momento più dolce, quello atteso con più ansia, il momento in cui gli oligarchi avrebbero dovuto, secondo i suoi piani, avvicinarsi al banchetto dopo essersi sbarazzati dei pericolosi ornamenti e avrebbero dovuto vederla dall'altra parte del tavolo offrire loro, sorridendo, una penna per firmare. Allora avrebbero capito chi aveva procurato la loro rovina e avrebbero imparato a non sottovalutare più nessuna e a rispettare di più gli individui, specialmente le donne. Questo però non accadde. Gli oligarchi scapparono prima. Fine.